lasciato un po' di sigla. L'ultima puntata 2023-2024. Mi scuso per i messaggi che dalle 7.25 in avanti ho perso al 333-180-9494. Verranno recuperati certamente domani. Allora, come ho già ripetuto più volte, alcune esposizioni sono ancora in corso. Ne ho sottolineate due per rappresentare poi diverse modalità di incontro e rassegne, ad esempio quella che è la Certosa Estate, di cui abbiamo parlato anche all'interno del Last Minute odierno. E fino al 29 settembre al Mambo la mostra Perso Anomalia di Robert Kuzmirovski. La curatela è di Marinella Paderni, con co-curatela del direttore Lorenzo Balbi, ed è una mostra che veramente è da non perdere. È un'esposizione al Mambo che dà concretezza, allo stesso tempo un'importanza nella sospensione di scorrere del tempo, che diventa fondamentale sia nel lavoro che nella quotidianità che nella visione. Una esposizione che a me personalmente ha emozionato tantissimo, è sicuramente una delle esposizioni portate al Mambo, ed è per un periodo esteso nella sala delle ciminiere, che grazie a questo artista di origine polacca, tra l'altro abbiamo anche una colonna sonora polacca, e quindi ho voluto portare anche le note adatte per tutto ciò. Noto appunto, da notare, che per il suo approccio alla creazione di ambienti immersivi, di cui vi ho parlato in precedenza, Kuzmirovski esplora questa complessità che vi è nel sentire del ricordo, dell'oblio, ma anche di tutto quello che è un'importante quotidianità. Ecco, allora, a tale proposito io ho contattato, ho riproposto, ho selezionato per riproporre la voce di Marinella Paderni, che è co-curatrice dell'esposizione. Sentiamo questa presentazione in apertura dell'esposizione Perso Anomalia al Mambo. Iniziamo questa nostra conversazione e ci presentiamo. Siamo al Mambo, imminente l'apertura di una nuova esposizione. Siamo con la curatrice, ho il piacere di parlare con Marinella Paderni. Per una mostra dove il protagonista è Robert Kuzmirovski. E iniziamo con l'identikit dell'artista in questione. Sì, l'artista è polacco e appartiene alla generazione degli artisti che negli anni 2000 sono emersi dopo che appunto la Polonia è diventata una repubblica democratica. E quindi nel suo lavoro, nella sua ricerca in generale, c'è sempre una dimensione legata alla storia e alla memoria del suo paese, ma in generale dell'Europa. E quindi questa ricerca sulla memoria del nostro tempo è collegata sempre al passato. Questa è una cosa importante, perché attraverso la esplorazione della memoria della memoria e quindi del passato si può arrivare a comprendere la nostra identità odierna, la nostra storia. Un passo indietro per farne due avanti. Esatto, proprio così. È interessante perché, entrando nella mostra, sembra proprio di fare non un passo indietro, sembra di farne molti di più, perché si entra in un mondo dove il tempo sembra apparentemente essersi fermato, perché si tratta di oggetti, di situazioni, di ambienti costruiti che rimandano appunto ad un tempo indefinito che appartiene però alla nostra storia del XX e XXI secolo. Ma questi passi indietro in realtà ci portano a rivedere questi oggetti, queste cose che sembrano superati dalla modernità, dalla tecnologia, dalla nostra società di oggi, che invece hanno trattenuto ancora dentro di sé questo anelito, questo effluvio di vita che ci parla appunto di quello che noi siamo e come siamo diventati oggi. un'evenienza con Last Minute, che è questo incontro con Bologna sotto le stelle del cinema. È stato il primo, è stato qualche giorno fa, lunedì 1 luglio, Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, insieme a Marinella Paderni, ha presentato, prima della proiezione del giorno che vi ho appena di inizio luglio, Robert Kuzmirowski, Perso Anomalia. Essere catapultati in queste atmosfere, essere dal grande al piccolissimo, da un apparente disordine che diventa invece motivo di continuità, dalla sospensione, dalla perdita di orientamento piacevole ma anche curiosa, a volte anche inquietante. È una delle esposizioni nel contemporaneo che più mi ha colpito, come potete ben sentire dalla mia emozione. È un'esposizione fino al 29 settembre al Mambo, porta determinati aspetti che arrivano dal lavoro, dalla continuità che si può dare al lavoro, da quello che stiamo perdendo negli oggetti, anche con l'aspetto di mancanza di una manutenzione che magari una volta aveva più attenzione a questi oggetti, indipendentemente dall'uso che se ne faceva. È una mostra che porta anche in questo caso una denuncia importante per quanto riguarda com'è cambiato il nostro approccio con tutto ciò. Diversi sono gli aspetti di attenzione nell'esposizione, come del resto le grandi mostre hanno questa caratteristica. È riportata una sala d'aspetto da per quanto riguarda prenotazione ed aspetto per l'aeroporto della Lufthansa, mi pare, anche questa, ma riportata per quanto riguarda qualche decennio fa, e questo vediamo come era diversa la quotidianità. Vengono riportati strumenti di lavoro che ormai al cospetto di tutto ciò restiamo così attoniti, perché non è una memorabilia, dimenticate tutto ciò, assolutamente, è proprio riportare queste sensazioni costanti e presenti e soprattutto molto incisive. Allora ascoltiamo Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, che presenta la mostra di cui stiamo dando un percorso, oltre che ancora presente al Mambo, ma di continuità. È veramente un'esposizione molto intensa per un periodo esposto, sarà al Mambo. Siamo con Lorenzo Balbi. Come mai e perché è arrivato questo artista a Bologna? Ciao William, buongiorno a tutti e tutte. Siamo molto emozionati oggi perché l'inaugurazione, la presentazione della mostra di Robert Kuzmirowski è per noi anche una tappa importante di un lungo cammino che abbiamo fatto con questo artista polacco, cinquantenne, nato a Łódź nel centro della Polonia, ma vive da parecchi anni a Lublino. Un artista che per tutta la sua carriera ha ragionato sulla natura degli oggetti, sulla vita degli oggetti, se c'è una vita oltre la fine dell'oggetto e quale può essere determinata come fine di un oggetto. Robert Kuzmirowski ha fatto di questa poetica dell'indagine sull'oggetto dimenticato, lasciato morire, deperito, tutta la sua cifra stilistica. E quando abbiamo ricevuto l'input di ragionare sull'eredità della tragedia di Ustica, a partire dagli oggetti che siamo depositati a mantenere, valorizzare, abbiamo pensato a Robert Kuzmirowski come l'artista perfetto per ragionare su come questi oggetti, che evidentemente portano in sé un messaggio tragico di morte, di fine, possono in realtà ancora vivere, ancora portare significati, ancora essere riletti con gli occhi della contemporaneità. Da questo nasce la mostra di Robert Kuzmirowski e queste grandi installazioni che partono proprio dall'idea di far rivivere degli oggetti con il vissuto di tutti noi. Thank you.